strada. E usano pure l'altri, eh? Come se fa a riconoscere uno che c'ha una lira? Sona. Ma non sona. Sona, fa rumore. E il tintinnio di spiccioli, che per quanti possono essere, sono sempre pochi. Lo spicciolo non è mica una moneta, no? È la risposta a un rompicapo. Perché tu stai lì a cercare di capire in quella cifra che ci puoi comprare, che ci puoi far entrare, spigni, che te rispigni, ma non c'è niente, niente da fare, non ce va. Che ci va a fare? La vita è dura. C'è chi cerca un banca, un sordo più, un sordo meno, non gli fa la differenza. Se l'occhio gli casca su una cosa che gli piace, la ponna ricoglie. No come me, che mi allontano e non ci vedo dalla rabbia. Si il cuore poi sbatte sul cofano di una bella ragazza, può azzardare. La può invitare a degustare un vino di tant'anni. No come me, che gli dovrei chiedere di pagarmi i danni. E è una ragazza che gli posso offrire. Una serenata. Posso andare sotto al balcone, aspettare che si spegna la luce, spera di non aver sbagliato il barcone. Una volta mi sono sbagliato, 3 volte mi hanno gettato addosso l'urinale. Dici, ma la cosa che non mi riesco a capire non è perché. Come ha fatto a riempirlo per 3 volte? E attacco. Sotto le stelle che brillano a mille lassù, questa serata incantevole c'ha manchi solo che tu dormi e non pensi allo spasimo che sto patendo per te. Ma come vai a dormire con quest'aria spensierata? Tesoro, vi a sentire, te fa una serenata, te voglio far sapere quello che sei per me. Sei la gioia, la vita, l'amore e sto cuore che soffre per te. Io non voglio lavorare, per sta vita non mi ci sento nato. E poi a tutto sommato a me a vivere da spiantato ormai mi ci sono pure abituato. E mo, che dopo tanto tempo mi sono dato pace, a sietà se arriva qualcuno e mi offre un posto fisso, io rifinisco dalla padella a brace. Dice che a noi ci piace l'arte. Dice sì, ma come dire a campare con l'arte? Come dire a campare? Naviga a vista. Tiro dritto. Con una veletta fina fina per sopportare la marea, c'è da scherzare poco, assai poco, perché l'acqua è peggio, peggio del fuoco. So brutti i momenti che stai lì, in mezzo alla furia degli eventi, alla battaglia degli venti, eppure quando che il mare è calmo, che vedi quell'azzurro del Turchino, che te ci sdrai lungo lungo là vicino, ah com'è bello, te si apre il cuore come uno sportello. Vabbè. Che poi a me l'unico mestiere che mi piace di la verità è il mestiere da fruttarola. La fruttarola è proprio un bel mestiere, perché sarà che mi piace il pelo di pesca, sarà che mi piace il profumo d'arancio, sarà che mia nonna faceva la fruttarola. E poi perché per la strada dove abito io, un pezzetto più su del fornaro, c'è un bucetto che m'è tanto caro, che qua dentro c'è spenno del mio, in quel bucio c'è sta una picchietta, che c'ha l'occhi che so du carboni, venenditia, cucuzze e meloni, e qua dentro gli dico a così, fruzzarola ciumachella, tu che vendi roba bella, però il frutto più sgargiato sempre addosso lo hai portato, questo frutto che è proibito da toccasse pure condito, e forse te lo ruberò, stacci attenta fruttarò. Ma un bel giorno che m'ero stufato de girai all'intorno al bucetto, entra i 30 gli ho detto in bacetto, e un abbraccio un po' troppo infogato me guardò come se niente fosse, e poi disse ve gira il boccino a ricordatevi sor Moscardino de non fa ste scenate con me. Bru- Tarola giù magella, t'approfitti che sei bella e che tutto quanto è il giorno te so sempre a gira intorno, ma ricordati sia il caso, me fanna la mosca al naso. Non so più quel che farò, il cuore te lo ruberò, ma ricordati sia il caso, me fanna la mosca al naso. E non so più quel che farò, stacci attenta, fruttarò. Oh, io non voglio lavorare, mi sono spiegato, bisogna sprecarci altre parole. Dici, vabbè, ma se non lavori sei inutile. Vabbè, sarò inutile, ma io ho l'arte. E poi sarò pure inutile, ma non sono ignorante. L'ignoranza è una cosa brutta davvero, perché l'ignoranza ti mette a dare su zero, o zero non conta niente, almeno su uno. Se mi metto a capofila di 5-0 divento 100.000. Dice, vabbè, poi illuso, al mondo in mezzo a sta faiola d'assassini, l'unico gli amici veri, o sai chi sono? Sono i quadrini, beata a te, stai bene te con i quadrini. Oh, il denaro è una malattia, il denaro è una malattia, te s'attacca, te succhia il sangue, defatti nasce da una madre che si chiama Zecca. A Roma Dio non è trino, no, è quadrino. A digiuno so fiacco de staiole, ma dopo che ho mangiato e che ho bevuto tutto il micusto e de sta lì sdraiato su quel murello dove c'è batte il sole. A me ci stanno certi giorni che non mi vado a fare niente, no? Però a me certi giorni invece, quando proprio non mi vado a fare niente, vedo la poesia dappertutto. E allora mi piace fare la spesa, frugare fra la frutta, comprare pane scrocchiarello, a rosetta, tantigna al sugo che mi piace tanto quello di mi nonna. A me mi nonna mi piace tanto, eh. Ah, un mi nonna c'ha due gambe. C'ha due gambe che se gli metti intorno alle lenticchie ci sfammi tutti gli ospiti di Capodanno. E il cuore è grosso come quello di un capanno. E lei solo il fatto di svegliarsi la mattina è contenta. E poi mi chiede sempre un racconto, una canzone. Mi dice sempre, mi canti la canzone che mi cantava sempre nonno, che mi dedicava tutte le mattine appena aprivo gli occhi. Tutte le mattine mio nonno gli cantava sta canzone. Gliela dedicava a lei. Si intitola E streghe. M'hanno detto che le streghe so vecchiacce e brutte assai, non capisco come mai, non so belle come te, non so belle come te, perché tu sei un angioletto che dal cielo sei cascato e per questo m'hai stregato. Non me vai con niente più. Sì, tutte le streghe so come sei te, non ho più paura, le voglio vedere. M'hanno detto che è una strega, si gli metti sulla porta una scopa è mezza morta, scappa via e non torna più. Scappa via e non torna più. Ma se tu trovi anni scosta una scopa a casa mia, c'hai paura, scappi via o te metti a spazzola. Sì, tutte le streghe so come sei te, non ho più paura, le voglio vedere. M'hanno detto che le streghe quando vanno alla funzione s'accavallano. Diramento che questi sono gli 87.900 di Radio Onda Rossa. State ascoltando lo streaming dalla torre per questa serata appunto commemorativa, se possiamo dire, dei 35 anni di Radio Onda Rossa, una radio libera nell'etere di Roma e Lazio sin dal 1977, quindi siamo nel 2012, via Bertero 13. E poi porta me a Art Decore con Eleonora Banco, sì, Valerio Aprea, Daniele Emilio, Johnny Palomba, Elio Germano, musica e parole. Una mano sul cuore, due. Sì, andate, andate, andate alla torre. Non ho più paura, le voglio vedere. Roma ha visti dei lavoratori, dice mio nonno. Dice che poi siamo fannulloni, ha visti lei. Non... Dice però era un'altra Roma. Era una Roma che i polli nelle ricorrenze andavano a tutto spiano. Quando c'era la ricorrenza si compravano i polli. E la gente più moscetta, che il pollo non se lo poteva permettere, andava lo stesso dal pollarolo. Si comprava solo le piume. E spargeva fuori dalla casa per far credere che pure lì si sprecavano. Capito? Ma era un'altra Roma, se stava all'aperto, non si stava mica sempre chiusi dentro una stanza. I messieri ce n'erano tanti, c'è stava il Pater Nostraro. E il Pater Nostraro è quello che faceva i rosari. Poi c'è stava il Pela Pallentaro che faceva i pellicci, il Gipponari che facevano i tessitori dei corpetti. Poi c'è stava il venditore d'inchiostro, quello era un venditore specializzato perché quello vendeva solo inchiostro. E poi grugniva. Se non grugniva non andava bene, lui andava in giro per Roma col carrettino e faceva inchiostro scrivi, inchiostro scrivi. Poi un altro mestiere che ormai mi sa che c'è, ma il mosciarellaro. Il mosciarellaro insieme ai castagni vendeva i mosconi verdi. I mosconi. I piava dal fiore del sambuco, gli ci attaccava alla zampina un filetto e lo faceva volare come fosse un aquilone. Poi c'è stava il carnaciaro, quello che vendeva i carne per i gatti, quello mica sibilava, quello mica parlava, faceva proprio il suono che a Roma si chiama il soldino, faceva così, solo così. E poi c'erano i svegliatori notturni, quelli pure erano strani, da rischiavano, perché loro di notte andavano a chiamare gente che sennò c'avevano paura che si perdevano la diligenza, capito? Alle 4 di mattina andavano, oh scendi, era un mestiere pericoloso. Roma ha visti dei lavoratori, sì. Oggi invece se vuoi cantare, dipingere o recitare, uno spazio te devi trovare, te devi arintanare, ma chi te vedrà? Agli artisti la rendono una tortura, ma la gente gli fanno peggio, alla gente gli levano la cultura e senza la cultura, o dice la parola, la terra si fa arida e dura, tanto dura. Dice, ma a parlare tutti si mestieri, non è che a te ti è venuta voglia di lavorare? No. Proprio no. Guarda, l'unico motivo che posso trovare per valido per lavorare è per avere una risposta da te quando ti dicono tu la vita che fai? Dice io. Anche perché se tu capite, faccia artista. E rimangono lì, aspettano che tu vieni da un'altra. Allora, uno ci perde pure. A dire la verità, una volta ho fatto un lavoro, ci ho provato. Una volta, mica. Ho fatto la maschera per un teatro. Ho detto, mi sembra un buon compromesso, dico male che va, mi vedo lo spettacolo da ingresso, invece ci ho rimesso. Capita che uno mi comincia a baccagliare perché dice che il posto non è della sua taglia e comincia a strillare. Oh! Parlava pure così questo, capito? Oh! E sì, so grasso che c'ho colpa io, potevate far più grossa la porzione, io quando spendo voglio un posto adatto al culo mio. Allora io ho cercato di calmarlo che è buono e ho detto guarda io non so l'architetto ma tantomeno so il padrone e poi per cortesia devo usare un altro nome, culo, ce ne stanno tanti, ano, forello, chitarrino, signorino, mela, suffietto, culleggio romano, Culiseo, ma pure cuscino, frullone, faccia di dietro, portone di trapasso, contrabbasso, cocomero, mappamondo, vicinato, orto botanico, ma quello niente, chi più ne ha più ne metta continuava. Oh! Qui il culo mio non c'entra, non c'è scappa, e io per dare soddisfazione a voi non è che mo mi taglio una fetta di chiappa. Allora, siccome stava per cominciare lo spettacolo da attori, si prestava aprire il sipario, io per non disturbare attori, ho fatto, vabbè, te porto sul parchetto degli signori. Lì c'è sta una panca che c'entra pure una giovenca. E così ho fatto, ce l'ho portato. Quando il padrone è venuto a saperlo, invece di dirmi grazie, ma non mi ha fatto pagare la differenza del biglietto. Allora io ho fatto, è meglio dargli i quadrini per culo che come te dar culo per i quadrini e me ne son nato. O dice pure il Belli, la verità, e il maestro Belli dice, la verità è come la cacarella che quando te viene limpido e te scappa hai tempo te serà la chiappa, storcete e tremà per i tenella. Ma sia a bocca non s'attappa, a verità sbrulutalella. Perché ho da sta zitto di namifo ogni qualvolta le cose sono vere? le bocche il nostro Dio vi è sincero e noi uomini ci mettiamo su una fibbia. E no, sempre verità, sempre il dovere. Quasi fatto e ne la faccio più. C'è una certa. Grazie. Ah, no, dico che poi per fortunatamente a Romano gliene frega sgrulla artisticamente di tutto. A Romano, noi si dice che noi l'aria del chi se ne è avevamo imparato a Cristo, figuratevi. Eppure mia nonna mi diceva: guarda che se vive l'anni di Noè c'è un segreto che te lo dico solo a te, lo sciroppetto del dottor Menè. Si te fanno qualche torto, brutte storie da esaurimento, che te caschino i capelli sul pavimento, tu allisce del mento. Senti a me lo sciroppetto del dottor Menè. Se i problemi sono ladri de sonno, che a girai in tondo te casca al mondo. Non te farò delle frattaglie, nudi la camomilla, signor, aridaglie. Senti a me, c'ho la ricetta, lo sciroppetto del dottor Menè. E uno sciroppetto dolce, dolce, te ne bastano due gocce, te leva il bruciore, te stura pure il cuore, ha detto bene il dottore. La reazione è strana, al principio la lingua è amara, e il gargarozzo non vuole scendere. È stretto in gola col cappio della rabbia, ma una volta mannato in della gabbia, il sapore è buono, te si sgrullano le spalle, te vi è da rida crevavelle, si parlano male di te, senti a me lo sciroppetto del dottor Menè. Ti è caduto un sogno, ti è caduto un sogno, eh sì. Tu fai e riporto, senti a me che problema c'è, lo sciroppetto del dottor Menè, lo sciroppetto del dottor Menè, lo sciroppetto del dottor Menè, lo sciroppetto del dottor Menè. Grazie. Bravo. Grazie. È stato bello. Dario Benedetti. Buonasera. Facciamo giro, facciamo un po' di turnazioni stasera, che è una festa per tutti. Come sono vestito? C'ho la maglietta più bella di tutte, ragazzi. Sto patendo il freddo per far vedere la maglietta. Grazie, scusate il fisico, ma c'ho un fisico da sollevatore di polemiche, mi dissero una volta. Ma questa è un'altra storia. Allora, io l'anno scorso ho letto delle poesie di Trilussa, perché amo molto Trilussa, poi ho scoperto che c'è in programma una fiction interpretata da Michele Placido, e quindi ho cambiato autore. E volevo farvi invece conoscere un grandissimo autore che si chiama Mauro Marè, e che era un notaio che è morto nel 93 e che si dilettava a scrivere delle poesie molto belle, chiaramente in questa nostra lingua che ci piace tanto, e quindi vi volevo leggere, avvalendomi del maestro, di un po' di poesie. Comincio con Er cinematofrego. Per millanta e mill'anni che non c'ero, ho visto tutto nero. Ma un giorno ho visto il giorno, come un film a colori. Uno stravede la zinna, la bobona, il giocarello,

A scuola dei sore ci stavano i frappi, coriandoli al zoletto. A buzzicona del banco mio la vestita da damina. Cavarucca dell'ana de pecora alta 2 metri. Poi ci stava una, Tania, canacchera qua col toro. Io sono Spagna, de capri de Spagna. Mia madre mi ha vestita da spagnola, te incazzo, spagnola, da spagnola. Stava uno, tutto bianco e nero, 3 pulsanti in testa, la fascia tutta bianca, sembrava che aveva vomitato da 2 minuti. A me piaceva uguale, io no, io da portiere da Roma. Sono boccata a scuola, tutti, ah, Sonia si è vestita sta palla. Mo parla palla, oh. Sono scappata a casa, sono fatta 2000 chilometri. Fatemi cambiare la mascherina, fatemi cambiare. Sono Sonia, ma chi è? M'ha svegliato, via su. Fatemi cambiare la mascherina, m'ha svegliato, via su. M'ha svegliato. Che vuoi? Te vuoi cambiare la mascherina? Zitta, mette della nunfia da. Mi ha fatto mettere tutta nera e zampe dei fori bianche. Questo è il fischietto, questa è la mascherina tua. Cori, che sei pure un arbitro, sei pure cornuta. Cori, va a scuola. Sono andata a fischiare. Te vorrei sapere che io che ci trovo dentro al frigo di casa mia? Ah, crisi ci trovo! È tutto vuoto il frigo di casa mia, tutto bianco e vuoto. Te vuoi pigliare il latte te fa scaduto. Te vorrei sapere a me mia madre dove mi ha comprata la Barbie? A bancarella del pechinese sotto casa mi ha comprata. Hai visto la Barbie è tutta bionda? Questa era viola, rasata, coi buchi. E dette da Barbie 9, hai visto come sono? Yeah, gli arrivano qua. A questa gli arrivavano qua, gli arrivavano. Gli dico, ma che cazzo di Barbie mi ha comprato? È tutta storta, la testa rasata. Hai detto gli arrivano qua, ma... Oh, sta Barbie allattato, vabbè. Poi c'è la crisi, c'è la crisi. E vai la canzoncina di mia madre. Crisi per magnà, crisi per bere, crisi per sci, crisi per comprare MS Mild, crisi fra mio padre e mia madre, che tanto mio padre si vede, non si vede, ma meglio così, mortacci sua. Microfono, ecco, pronto, salve, salve, ciao, buonasera. Serata romana, io ho portato un certo signore che si chiama Giuseppe Gioacchino Belli. Aie! Yeah! E fora! Questo è da dedicare a tutti quelli che viaggiano o che non viaggiano. E fora! Tu che sei stato a Spagna, a Conciappelle... È vero che Parigi è un gran locale dove per di moglie, tutt'uno e sale si dice fame, 7 galli e selle. Ci sono là le osterie, le carrettelle, pisciano come noi nell'urinale. Le case vanno su, c'hanno le scale. Cala la luna là, so assai le stelle. Li muri so de legno o so de muro? Va a ripetter carbone o a riba grande? L'acqua dei trevidi fuma all'appuro? Chi papa c'è? Li gobbi hanno la gobba? Se trovano a Parigi le mutande, gira per Roma là tutta la roba. Questa è una serie, insomma, un paio di modernissime donne belliane. Una è una mamma, la mamma prudente. Fia mia, ma in dove sta il decoro? Come? Il sor conte te porta un anello e tu gli vai a mettere nel cervello la sofisticheria che c'è pocoro? Per primo giorno da un tesoro. Tu fatti a regolà. Mo inverta quello e un'altra volta la verrai più bello, se sa tutte cose al tempo loro. Già che te manna il Dio sto pezzo d'onto, fia mia, fa la parte che te tocca, non te lo disgustati e te l'acconto. E ricusar regali è agida sciocca. Piglielo tuta, non gli fa sta affronto. Caval donato non se guarda in bocca. Primo, consigliarli dubbiosi, questo fa riferimento ai comandamenti. Primo, consigliarli dubbiosi. Vien Ninetta e mi dice, È qualche giorno che il figlio della sora Anastasia mi fa regali. E quando Meo sta al forno, mi entra in casa a pregà che gliela dia. Da una parte, comare, io non vorrei dire di sì per non fa a Meo sto corno. Da un'altra parte, poi, comare mia, come dire di no si me via intorno. Di che faresti tu negli miei panni? Per me gliela darebbe, io gli rispose, senza lasciarmi tormentare mill'anni. Lei allora andò a casa e gliela diede, e da quel giorno in poi vanno le cose che l'assaggia chiunque gliela chiede. Limanfroditi. Limanfroditi, so, già che te preme desti latte il cervello in stan trabega, so, piffa tu, chieria de qualche strega, uomini e donne appiccicati insieme. Loro son maschi e femmine medeme, e se gli vier crapiccio d'anna in frega, cazzo e fregna gli sta a casa e bottega, per dà al bisogno e per ricever seme. Quel potè appiccica se fa l'amore con chiunque te capita davanti. Non te pare un bel dono del Signore? All'incontrario, poi tanti e poi tanti, gente lecito, onesta e de buon cuore, non trovano a scopà manco li santi. Questo è un altro modernissimo sonetto belliano che sembra di... Se io ogni volta che vado in metropolitana mi sembra di risentirlo, no? La poverella. Fate la carità, signora mia, in onor del glorioso San Clemente, consolate sto povero innocente che per la fame me sta in agonia. Aiutatemi voi tra tanta gente, fatemi la di Ave Maria, il Sacro Cuore di Gesù Maria, mezzo baiocco a voi non ve fa niente. Oh, lustrissima, non m'abbandonate, che la Madonna ve pozzi concede tutte le grazie che desiderate. Per l'amor de Maria del Buon Consiglio, soccorrete una madre che ve chiede qualche soccorso da salvare un figlio. Li soldati boni, anche questo modernissimo sonetto sulla guerra. Subito con sovrano della terra crede che un altro gli abbi tocco un fico, dice al popolo suo: tu sei nemico del tale o del tal re, fai la guerra. E il popolo, per sfugge la galera o qualcantra grazietta che non dico, pia lo schioppo e viaggia come un prico che spedischino in Francia o in Inghilterra. Così, per i crapicci d'una corte, ste pecore ritornano alla stalla con mezza testa e con le gambe storte e con le vite ce se giuca a palla, come quella puttana della morte non venisse da lei senza cercarla. Le cose del mondo, questo sonetto lo amo particolarmente, poi amo tantissimo farlo quando siamo così all'aperto. Er mormorà di Dio, figli belli, è la consolazione degli sciocchi. Le sorti hanno danna con i fragelli, chi è ricco e chi se gratta li pidocchi. Er papa aiuterà li poverelli, un altro poi gli caccerebbe l'occhi. Er monno a così va. So giugarelli, cose de niente, a fare dei baiocchi. Che serve a raccontanno a una le fortune dell'antri? So parole, nessuno è sazio della sua fortuna. Fremma è tempo e non sempre si digiuna.

Ciao, grazie a tutti. Viva, viva Onda Rossa. Allora, cominciamo il secondo giro. Sa, prova, un, due, tre, prova, un, due, tre, prova. Ah, vedi, ma che esce? Dario. A voce... Trilussa, la voce della coscienza, 1927. A sora checca pare una balena, gli passo che fa ripia fiato, però sotto quel grasso esagerato c'è sta riposta un'anima che pena. Era felice, ma la boia sorte la fece resta vedova due volte. C'ha avuto due mariti, salvo ognuno. Due se ne è messa all'anima purtroppo. Gustavo prima e Benvenuto dopo. Gli so campati 12 anni l'uno. E adesso se li porta a pennolone, attaccati allo stesso medaglione. L'idea rinchiusi in un cerchietto d'oro, da una parte all'altra sortrovetro. Gustavo avanti e Benvenuto dietro. Che così non si vedono tra loro. E ognuno si figura e si consola d'essere in pianto da una parte sola. Fa l'impressione che la vedovanza gli venga registrata da un controllo, perché li duri tratti che c'è al collo gli vanno a sbattere proprio sulla panza, e li mariti, col girasse intorno, se danno il cambio 100 volte al giorno. Gustavo è pensieroso e guarda storto, come se prevedesse l'accidente, invece benvenuto e sorridente, come fosse contento d'essere morto. Ma ce se vede in tutte e due la posa de gente che sospetta qualche cosa. La sora checca, infatti, c'è rimorso che quando il primo stava ancora in vita faceva già la scema col secondo in una cameretta al corso. Però gli metteva bene assai, perché Gustavo non lo seppe mai. Poi benvenuto se la prese lui. Io me desposo subito, gli disse, purché me giuri di non farmi bisse con qualcun altro degli amici tui. Oh, fece lei, ci mancherebbe questa, ma per chi me pi? E gli allisciò la testa. Gli fu fedele? Non garantirei. Prova ne sia adesso che si è avvilita per paura che nell'altra vita i tuoi mariti parlino di lei. E quando ci si affissa col pensiero, gli pare di sentirli per davvero. Gustavo dice, voglio sapere tutto. De me che te diceva? Che eri un porco. Quando partivi te partiva l'orco. Diceva che eri grasso, che eri brutto, che non facevi niente di speciale. E invece mi chiamava l'ideale. In 12 anni dunque ha sempre finto, strilla Gustavo, non l'avrei creduto. Abbi pazienza, dice benvenuto, è stato proprio lei che invece ha spinto. Del resto tu lo sai che non so pochi quelli che ci facevano i giochi. E capirei se te dovessi fare tutta la lista. L'avvocatino del secondo piano, il barone, il curato, il capitano, perfino Gigi, quell'elettricista che un giorno gli ha rimesso pure il campanello. Pure con quello lì. Pure con quello. Sta voce che risente così spesso non è che la coscienza che lavora sui peccati che faceva allora, rimossi dagli scrupoli da adesso, e le scappate fatte belle o brutte una per una le rivede tutte. Apposta soffre che le pene sue sono appunto li ricordi di sti fatti. Allora si riguarda li ritratti, pulisce il vetro, bacia a tutte e due e sospirano fiotta a denti stretti. Erano tanto buoni, poveretti. Senza morire sono arrivato, hai visto? Fa sempre più freddo, ma in solidarietà con chi resiste sotto. Ti ridò poi quella cosa che ti ho promesso. Allora, continuiamo. Io vi leggo altre tre cose di Mauro Marè. Vi leggo tre cose su Roma. La prima si chiama Oscenufregi e parla di questa Roma un po' sbudellata da tutto e tutti, depredata, no? Da imperatori e sindaci, e fa così: oscenufregi, marmi, colonne, attigna con la notte, come morti sorrisi bianchi, come li coccodrilli ciechi dentro alle fogne di Nova York. E a Roma ci sono certe sorche nere come pantere, strade come gruviere. Ave cielo tosto, forte e tonante come il chiodo del burdozze che scenufreggia, sciupa, sbiossa, strazia, incarca, spigne, sbatte, sfregna tutta la città. Sciatta a panza per aria, come ce gode sta brutta troiaccia a fasse sbudellà. E queste sono altre due cose molto poetiche, secondo me, su Roma. La prima si chiama Tutto Inferno. Tutto Inferno.

vecchia, gli ha risposto la vecchia, portatemi l'ova, minova, buffava, col cironcroncava, col firufruffava, portatemi l'ova, che ve farò la torta, minorta, bufforta, col cironcroncata, col firufruffata, che ve farò la torta. Allora i tre fanti, minanti, buffanti, col cironcroncanti, col firufrunfanti, allora i tre fanti gli portorno l'ova, minova, buffova, col cironcroncava, col firufrunfova, gli portorno l'ova. La vecchia, minecchia, buffecchia, col cironcroncecchia, col firufrunfecchia, la vecchia gli fece la torta, minorta, bufforta, col cironcroncorta, col firufrunforta, gli fece la torta. La messa sul tetto, minetto. Buffetto, col cironcroncchetto, col firunfurunfetto, l'ha messo sul tetto, venne un gatto, minatto, buffatto, col cironcroncatto, col firunfurunfatto, venne un gatto e gli si mangiò la torta, minorta, bufforta, col cironcroncorta, col firunfurunforta, gli si mangiò la torta. Rivennero i tre fanti, minanti, buffanti, col cironcroncanti, col firunfurunfanti, rivennero i tre fanti e gli dissero, vecchia, minecchia, buffecchia, col cironcroncchecchia, col firunfurunfecchia, gli dissero, vecchia, dacce la torta, minorta, bufforta, col cironcroncorta, col firunfurunforta, dacce la torta. Rispose la vecchia, minecchia, buffecchia, col cironcroncchecchia, col firunfurunfecchia, rispose la vecchia, l'ha messa sul tetto. Minetto a buffetto, col cironcroncchetto, col firunfurunfetto, l'ha messo sul tetto. Mi è venuto un gatto, minato e buffato, col cironcroncatto, col firunfurunfatto, è venuto un gatto e mi si è mangiata la torta. Minorta, buffata, col cironcroncatto, col firunfurunfatto, mi si è mangiata la torta. Dissero i tre fanti, minanti, buffanti, col cironcroncanti, col firunfurunfanti, dissero i tre fanti. Ta riporteremo l'ova, minova, bufava, col cironcroncava, col firunfurufava, ta riporteremo l'ova. Ma bada vecchia, minecchia, bufecchia, o cironcroncchecchia, col firunfurufecchia, ma bada vecchia, de faccio trovare la torta, minorta, buforta, col cironcroncorta, col firunfurufforte, faccio trovare la torta. Infatti i tre fanti, minanti, buffanti, col cironcroncanti, col firunfurunfanti, infatti i tre fanti, riportorno l'ova, minova, bufava, cironcroncava, col firunfurufava, riportorno l'ova. Allora la vecchia... Minecchia, buffecchia, cironcroncchecchia, firunfurunfecchia. Allora la vecchia rifece la torta, minorta, bufforta, col cironcroncorta, col firunfurunforta, rifece la torta. La rimise sul tetto. Minetto, buffetto, col cironcroncchetto, col firunfurunfetto, la rimise sul tetto. Ma rivenne il gatto, minatto, buffetto, col cironcroncatto, col firunfurunfatto, rivenne il gatto. E io se mangiò la torta, minorta, buffetto, col cironcroncorta, col firunfurunforta, io se rimagnò la torta. Arrivennero i tre fanti, minanti, buffanti, col cironcroncanti, col firunfurunfanti, rivennero i tre fanti e dissero la vecchia, minecchia, buffecchia, cironcroncchecchia, firunfurunfecchia, dissero la vecchia. Dacce la torta, minorta, buffetta, col cironcroncorta, col firunfurunforta, ridacce la torta. Ah, rispose la vecchia, minecchia, buffecchia, cironcroncchecchia, col firunfurunfecchia, rispose la vecchia. L'ha rimessa sul tetto, minetta, buffetto, col cironcroncchetto, col firunfurunfetto, l'ha rimessa sul tetto. Ma è venuto il gatto, minato, buffetto, col cironcroncatto, col firunfurunfetto, è venuto il gatto. E mi si è mangiata la torta, minorta, col cironcroncorta, col firunfurunforte, mi si è mangiata la torta. Allora i tre fanti, minanti, buffanti, col cironcroncanti, col firunfurunfanti, allora i tre fanti gli dissero, brutta vecchiaccia, minaccia, buffaccia, col cironcroncaccia, col firunfurunfaccia, brutta vecchiaccia. Ah, ripagheci la torta, minorta e buffarta, col cironcroncorta, col firunfurunfarta, ripagheci la torta. E intanto li fanti, minanti, buffanti, col cironcroncanti, col firunfurunfanti, intanto li fanti presero un bastone, minone, buffone, col cironcroncone, col firunfurunfone, presero un bastone e gli dettero un sacco, minacco, buffacco, col cironcroncacco, col firunfurunfacco, gli dettero un sacco di bastonate, minate, buffate, col cironcroncate, col firunfurunfate, le bastonate. E la vecchia, minecchia, buffecchia, col cironcroncate, col firunfurunfate. La vecchia morì, minì, buffì, col cironcroncate, col firunfurunfì. La vecchia morì, sì, scannata gliel'ha fatta. Chiacchierato.

Sì, ora devo coprire questo vuoto. La sapete quella di... Vuoi dire qualcosa, Eleonora? Vieni, vieni. Stai pure. Sto, posso stare? Sì, sì, tanto è breve. Parolacce. Me so rotta. Me so rotta il cazzo. Lassatemi campà. Lassatemi guardare un po' sto cielo che mi casca addosso. Lassatemi aprire la bocca, anche solo per non di niente. Ci stavano i gabbiani, dove sono io, sti stronzi? Appresso a qualche paranza riempissa la panza. O sai, me faccio pena. Me faccio pena da sola. Ah, che ride! Ah, che ride! Che ride! Che danco, ragazzi. Va bene, in realtà la serata sarebbe finita, a quanto ho capito. Grazie. Grazie a voi, soprattutto grazie a Radio Onda Rossa.